Allora, niente, io noi siamo il collettivo Malelingue di Teramo, siamo un collettivo transfemminista. Appunto, Teramo è una provincia, come molte province, è un territorio difficile per tanti motivi che potete immaginare, non è Roma, non è la grande città, quindi a livello di opportunità ma anche di mentalità molto difficile. Noi siamo nate 2 anni fa proprio a seguito di una, da parte di una denuncia da parte di una donna, una denuncia per violenze subite dal, da un importante ginecologo della zona e nonché assessore di un comune in provincia di Teramo. Noi siamo nate appunto perché, oltre al fatto di per sé gravissimo, abbiamo sentito il dovere di prendere voce e di appoggiare questa donna che ha subito una shitstorm e comunque una violenza secondaria veramente pesante, soprattutto sui social, quando è uscita la notizia. Ecco, questo per tornare al tema della violenza. La violenza secondaria è quella veramente penetrante all'interno di tutta quanta la nostra società. E questo per tornare un po' al tema della violenza, della violenza maschile. E, per quanto riguarda il nostro territorio, noi ieri siamo state in piazza a Teramo. La mattina abbiamo avuto un bellissimo incontro con l'Assemblea d'Istituto del Liceo Scientifico di Teramo, quindi quando si parla di che cosa possiamo fare, sicuramente parlare e metterci in ascolto di tutte quelle categorie che voce non hanno, quindi il famoso passo indietro. Ecco, è stato un incontro ricchissimo con tutti quanti gli studenti e le studentesse. E poi niente, siamo scese in piazza, in strada veramente, con il microfono per cercare di portare dei contenuti all'interno di una giornata come quella di ieri, dove è tutto un profluvio di panchine rosse, scarpette rosse, le donne non si toccano neanche con un fiore, soprattutto da parte delle istituzioni che, oltre che blaterare cose del genere, di fatto non fanno nulla per prevenire in maniera strutturale nel contrasto alla violenza sulle donne di genere e di intervenire al massimo nei momenti di emergenza, cioè quando ormai probabilmente è troppo tardi. E, come ci siamo scambiati, ecco, via messaggio prima, ci tenevo parecchio a leggere un testo, se posso. Certo, assolutamente. Perché praticamente noi come collettivo ovviamente abbiamo fatto una mappatura del territorio rispetto a diverse cose: l'accessibilità all'aborto, la somministrazione della RU486, della pillola del giorno dopo, e ovviamente diciamo, oltre che occuparci di violenza proprio nella sua manifestazione più efferata, ci interroghiamo anche su come la violenza sia in realtà strutturale, soprattutto nelle istituzioni, e quindi siamo andati a finire anche a parlare di un argomento importante, che è quello del centro antiviolenza. Ecco, noi abbiamo un centro antiviolenza che è istituzione della provincia, che sarebbe cosa buona e giusta, peccato che non sia così. Vi chiedo quindi un paio di minuti per leggere il nostro intervento che abbiamo fatto insieme con tutte le compagne, perché secondo noi è importante denunciare questa situazione. Vai. Allora, in Italia il sistema di sostegno e accoglienza delle donne che subiscono violenza si regge sul lavoro dei centri antiviolenza, CAV, delle case rifugio, strutture la cui esistenza è prevista dalla legge, ma che lo Stato non è mai riuscito a finanziare e organizzare in modo adeguato. Come dicono da anni i movimenti femministi e le associazioni di donne, i CAV e le case rifugio sono finanziati con meccanismi che non sono chiari, efficaci, omogenei e soprattutto sufficienti. A differenza di altre realtà, nel nostro territorio abbiamo un centro antiviolenza strettamente provinciale e per questo dovrebbe essere un tiro all'occhiello. Peccato che invece non funzioni. Quindi ci chiediamo e vi chiediamo, si tratta di un problema di mancanza di fondi o di cattiva gestione delle risorse? Un CAV, prima linea di frontiera contro la violenza, non dovrebbe garantire assistenza H24? Eppure molte testimonianze che ci sono state riportate dimostrano che il CAV nostrano, oltre ad avere orari di apertura veramente limitati, sia difficilmente reperibili. Sarebbe auspicabile che l'unico centro antiviolenza di Teramo faccia riferimento alle buone pratiche nazionali della rete DIRE e anche le indicazioni della Convenzione di Istanbul, che vedono i CAV quali punti nevralgici di una cultura e di una società diversa. A questo proposito ci chiediamo e vi chiediamo di nuovo: il CAV di Teramo non è forse troppo scarno e vuoto di contenuti? Non è forse fin troppo assordante il silenzio su questioni come l'accessibilità all'aborto, sulla vittimizzazione secondaria, quando tutta la comunità si è scagliata contro la vittima che ha denunciato una presunta violenza? Questo per dire che quando noi ci siamo mosse a sostegno della donna, le famose pari opportunità non c'erano. Eccetto le panchine, le scarpette rosse e la presenza in giornata istituzionale, non sarebbe sicuramente più efficace fare attività di formazione continua, incontri con le diverse realtà del territorio che hanno a cuore queste tematiche? Come mai di fronte alla richiesta di un incontro siamo state rimbalzate alla provincia? Sicuramente non è malafede, ma forse gestire un centro antiviolenza come se fosse un ufficio delle imposte non è proprio la cosa più efficace. Ci sembra evidentemente che il nostro CAV manchi totalmente di un approccio femminista. Il personale non è adeguatamente preparato, formato, risponde in modo inappropriato e approssimativo, talvolta colpevolizzando la vittima che vi si rivolge, come da nostre segnalazioni. Pubblico, laico, accessibile, solidale, protetto, efficace, sicuro, trasparente, efficiente, presente, qualificato, discreto, libero, empatico, chiaro e inclusivo nella comunicazione e nell'emersione dei casi di violenza di genere, costruttore di comunità, integrato sul territorio, indipendente, collettivo, in una parola femminista. Questo è un centro antiviolenza come dovrebbe essere, questo è il centro antiviolenza che vogliamo. Perché un CAV che non funziona è violenza. Grazie per questo spazio, scusate se mi sono dilungata. No, grazie, grazie a te. Anzi. Quindi, ok, quindi invece nel presidio di ieri ci vuoi raccontare qualcosa? Allora, nel presidio di ieri abbiamo affrontato diversi temi, anche dalla violenza sul lavoro a livello retributivo, a livello di condizioni, poi soprattutto con noi sono state vicine anche altre associazioni, l'associazione Afrodite, ovviamente le compagne di Casa del Popolo di Teramo che ci sostengono sempre, ecco i nostri alleati. Quando parlavate prima di che cosa si deve, no, un uomo che cosa dovrebbe fare, noi come donna non te lo posso dire se non supportare e essere alleato. C'era anche con noi in piazza l'Arcigay di Teramo, c'era anche la LUAR di Teramo ed è stato un presidio fortemente partecipato anche da tutte le varie persone che vuoi o non vuoi ci hanno sentito strillare e si sono fermate. Poi a conclusione del presidio abbiamo fatto una performance che si chiama Verma Vanent, che parte dalla storia di una nostra cara sorella Cuore, una storia di appunto violenza, non violenza fisica ma violenza psicologica molto forte, che noi abbiamo cercato insieme a lei di buttare fuori questa rabbia attraverso una pratica artistica condivisa, insieme a un'altra associazione che si chiama Arterea. Insomma, c'è stato questo momento veramente forte e partecipato, che è uno dei modi che noi con cui cerchiamo anche di arrivare a un pubblico che magari non frequenta spazi politici e che magari vede il 25 novembre come qualcosa di più superficiale. Molto molto interessante, grazie. Grazie mille. No, grazie, a te. Grazie ancora per questo spazio. Noi comunque su Radio Onda Rossa ce l'avamo già sentite, perché certo. Siamo quel collettivo a cui durante una presentazione di Prostitute in Rivolta abbiamo trovato fin troppe persone non invitate, ovvero uno stuolo di guardie in tenuta antisommossa. Ci tengo a ribadirlo, perché in quel caso eravamo ospiti di un'importantissima realtà di Giulianova che si chiama Campetto Occupato, che conosciamo bene. Esatto, che da anni resiste dal basso, spinge e che noi sosteniamo veramente con tutte le nostre forze è che la repressione politica tutti i giorni non fa altro che appunto tentare di soffocare. Questo è un altro discorso enorme che abbiamo tentato di affrontare e che insomma ripetutamente cerchiamo di affrontare, perché insomma questo problema della repressione è così sproporzionata ed enorme nei confronti di questi movimenti, di queste realtà, è un dato che ormai è sotto gli occhi di tutti. È una delle costanti proprio che accompagna anche le nostre trasmissioni ormai da, da un bel pezzo. Ma la matrice è la stessa, patriarcato è sempre quella, è sempre una delle tante espressioni di violenza, dalle donne agli spazi sociali, è sempre la solita mano, è sempre una la matrice, questo che si intessera, come dicevate anche voi prima, a tutti i livelli. Certo, infatti è sicuramente un ottimo modo, insomma, per come dire, unire le lotte per e anche per insomma rafforzarle in molti casi, a mio avviso. Quindi sicuramente c'è tanta strada da fare, però insomma ne vale la pena, ecco, questo è quello che mi sento da dire. Quindi veramente grazie mille per un'ultima cosa, sì. Scusami che davvero tipo momento saluto, ma non è così. A proposito di unire le lotte, ci tenevamo sempre a ringraziare anche il collettivo Fuori Genere dell'Aquila, che è sempre al nostro fianco, ci sostiene, e che quest'anno con Casematte insomma hanno festeggiato 10 anni di occupazione, e con cui ci piace confrontarci, perché uniti veramente possiamo fare la differenza. Ecco, soltanto l'ultima cosa, grazie mille.